volta un paese in cui vivevano una cicala e una formica. La formica era solerte e lavoratrice, e la cicala no. Le piaceva cantare e dormire mentre la formica lavorava alla cremente. Dovremmo provvedere per l'inverno come fanno le tue stupide formiche? Avanti, giochiamo, cantiamo e balliamo! E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. E la paura fa 90, si suol dire. Noi però la paura speriamo di metterla pian piano da parte. Mi riferisco alla paura della crisi, alla sfiducia nel futuro. Oggi infatti è un altro 90 che vogliamo festeggiare. La 90esima edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, che l'ACRI, che è l'Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio, celebra ogni anno per sottolineare il valore del risparmio e quindi di quei denari, pochi o tanti che siano, che mettiamo da parte per i nostri progetti. Insomma, in questa giornata si vuole sottolineare il valore del risparmio come strumento di crescita e di sviluppo e anche le sue valenze etiche. Cerchiamo di vedere le cose in positivo, ma vogliamo anche restare con i piedi per terra e commentare la fotografia del risparmio degli italiani con i punti di ombra e di luce, di forze, di difficoltà. Nella seconda parte del programma partiremo dai dati del rapporto ACRI-IPSOS che sono stati pubblicati proprio in occasione della giornata di oggi, ma vogliamo confrontarci con voi, vogliamo chiedere che tipo di risparmio vi sentite? Riuscite a mettere da parte qualcosa? E se proprio non ci riuscite, perché? Perché sono troppe le spese? Perché fate fatica ad organizzarvi? O a rinunciare a qualche sfizio? Silvia al 349-238-6666 mi ha già scritto: risparmiare, beh, è una parola grossa, non spendo più perché non posso. 800-24-0024 se volete prenotare i vostri interventi. Cicala o formica? Voi come vi sentite? Nella favola di Esopo la cicala incarna un po' chi se la gode, ma spreca anche il suo tempo, non mette nulla da parte. La formica invece è più precisa, virtuosa, una canta e l'altra accumula invece provviste per l'inverno. Voi a quale dei due profili vi sentite di assomigliare oggi? Oppure siete un mix? Oppure siete nati cicale e vi siete trasformati in formica o viceversa? Oggi con l'aiuto del dottor Francesco Aquilar proviamo a risvegliare la cicala e la formica che è in noi, perché entrambe, a seconda della situazione o della stagione della vita, hanno qualcosa da insegnarci. Intanto saluto il dottor Aquilar, che è presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri affezionati ascoltatori. Dottor Aquilar, già alcuni nostri ascoltatori si sono misurati con le domande che lei ha proposto sulla nostra pagina, una sorta di test. Ma per chi non avesse occasione di poter consultare internet, ci aiuta, ci dà qualche input per aiutarci a capire se siamo più cicalo o formica o come siamo cambiati? Certo, proveremo a parlarne oggi. Diciamo che in linea di massima cicale o formiche non si nasce ma si diventa a seguito della struttura familiare. Alcuni diventano per somiglianza con la struttura familiare, altri lo diventano per contrasto. Se sono stati allevati da un genitore troppo formica, per contrasto possono decidere di diventare cicale. Ci può essere una componente biologica, ma è minoritaria rispetto al resto. E poi nell'evoluzione della persona possiamo cambiare, sia per motivi interni, per riflessione, per averci pensato sopra, che per motivi esterni, come le vicende economiche di un determinato periodo storico come il nostro. E qualche volta si cambia anche a seguito di stati della vita. Per esempio nell'innamoramento tutti tendiamo a diventare più cicale, mentre nel matrimonio tutti tendiamo a diventare più formiche. Allora, un ascoltatore mi ci ha mandato una poesia di Gianni Rodari. Non me ne voglia la favola antica se non mi piace l'avara formica. Io preferisco l'allegra cicala, che il più bel canto non vende, regala. Dottor Aquilar, un bel pensiero quello del nostro ascoltatore di inviarci questa filastrocca di Gianni Rodari che racconta. È assolutamente un bel pensiero e proprio per questo noi dovremmo cercare di stare in mezzo tra le due cose. Ma qual è il problema? È che, per esempio, la vera formica si sente cicala, perché qualunque distrazione fa dall'accumulo per l'eventualità di un caso negativo viene considerata un troppo. Allora andiamo di fronte anche al tema di come noi ci rappresentiamo, se ci rappresentiamo veramente come siamo o se la nostra paura ci fa credere di essere diversi da come siamo, e poi possiamo decidere di modificare quello che siamo stati, possiamo decidere di usare qualunque occasione come questa trasmissione di Radio 24 per trasformarla in un momento di svolta, per diventare un po' più cicale o un po' più formiche se ci accorgiamo di aver esagerato in una direzione. Allora, cicale o formiche, siete ancora in tempo per decidere. L'autunno come stagione di mezzo è il momento ideale per cambiare, per chiarirsi le idee, magari per fare progetti. Salutiamo il dottor Aquilar che tornerà prima della fine della trasmissione per commentare un po' le vostre risposte che stanno arrivando sulla nostra pagina, ma anche via messaggio al 349-238-6666. Naturalmente siete invitati a intervenire in diretta all'800 24 0024. Cicale o formiche sono due profili, se ci pensate bene, che possiamo utilizzare anche per descrivere l'andamento del nostro metabolismo. Se in alcuni casi risparmiare fa bene, soprattutto per il nostro portafoglio, l'andamento lento invece non è adatto al nostro metabolismo che, per funzionare bene, deve spendere. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Daniela Lucini, associato all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, amico. Eccomi qua. Allora, il nostro metabolismo noi dovremmo augurarci che assomigli sempre di più a una cicala, che spenda, che faccia, che canti, che si muova. Ma vogliamo prima di tutto dare una definizione di questo metabolismo di cui parliamo sempre e che tiriamo sempre in ballo quando le cose non vanno bene? Allora, diciamo che il metabolismo è un insieme di vari processi biochimici che vengono messi in atto proprio a livello delle nostre cellule per produrre energia. Sì. Chiaramente significa, in poche parole, trasformare le cose che noi abbiamo anche assunto con l'alimentazione in attività, in movimento, in varie cose. Chiaramente poi questa capacità che ha il nostro organismo di fare tutte queste cose importanti varia in base a tantissime cose, all'età della persona, a livello di attività fisica, a patologie che certe volte possono esserci. Ad esempio, quando una persona dice che mi sembra di avere il metabolismo lento, sì, è quando proprio questa persona, magari pur facendo tutta una serie di attenzioni alimentari, non riesce a perdere peso, o quando si sente pesante, stanca, gonfia o cose di questo genere. Viceversa, un metabolismo definito veloce, allegro, è quando una persona fa in fretta, tra virgolette, a perdere peso facendo magari attività fisica o semplicemente cambiando anche di poco l'alimentazione. Infatti si dice è una persona sempre in movimento, attiva, energica, brucia tutto, vero? Esatto, esattamente, esattamente. Allora, pensiamo al nostro metabolismo e cerchiamo di capire se è più cicale o più formica e con l'aiuto i nostri esperti oggi lo aiuteremo a darsi una mossa. Vi sentite scarichi? Vi sentite senza energia? Curate la vostra dieta, ma alla fine quei chili non se ne vanno? Vi sentite appesantiti? 800 24 00 24, soprattutto se l'ago della bilancia non vuole saperne di muoversi. Professoressa, a proposito di movimento, ci sono delle diete che promettono di risvegliare il metabolismo, di trasformarlo senza fatica da un oculato risparmiatore come la nostra formica, no? In uno spendaccione dalle mani bucate come la cicala. Diciamo purtroppo che, però voi insegnate che non ci sono delle formule magiche. Diciamo che di formule magiche assolutamente non ci sono. D'altra parte però è vero che a seconda di quello che mangio, ma anche di come mangio e quando mangio, io posso aiutare piuttosto che dare fastidio al mio metabolismo. Questo invece lo possiamo sicuramente dire. Non abbiamo la bacchetta magica o mangia la cosa X o la cosa Y che vedrai che incominci a far lavorare il tuo metabolismo in maniera completamente diversa. Quindi noi, professoressa Lucini, per invitare i nostri ascoltatori a intervenire e soprattutto a farsi dare una mano da lei, dobbiamo chiedere, diteci come vi sentite, quanto pesate se il vostro peso non vi soddisfa perché siete un po' fuori forma, ma soprattutto diteci anche che cosa mangiate e quando mangiate. Assolutamente. Anche quanti pasti fate? Anche quanti passi fate. L'errore più grave è quello fatto da molte persone che fanno un digiuno molto molto lungo e poi fanno un solo pasto magari abbondante. Ma io non ho mangiato a pranzo, io non ho fatto colazione e ho mangiato questo e non ho perso niente. Ecco, la regola principale per mantenere un metabolismo un pochettino allegro è proprio quello di suddividere durante la giornata le calorie che noi andiamo ad assumere. 800 24 00 24, se volete intervenire con noi, metabolismo cicalo formica. Però professoressa Lucini, possiamo dire che se il metabolismo fosse una persona, sarebbe una persona che se la lega al dito. Mi riferisco al fatto che quando ci sono, noi facciamo delle diete e perdiamo peso e poi smettiamo e ritorniamo a mangiare liberamente, spesso noi accumuliamo con gli interessi chi li persi, ne abbiamo parlato tante volte. Questo in un certo senso può essere spiegato con il fatto che il nostro metabolismo ha la memoria, è lunga, cioè si ricorda, lui non vuole restrizioni, o almeno se non sono giustificate, è così, professoressa? Ma diciamo che il nostro metabolismo, più che non volere restrizioni, si ricorda delle restrizioni, perché è fatto, diciamo così, per risparmiare. Sì. Quindi tutte le volte che noi scendiamo rispetto a quello che mangiamo, il nostro metabolismo se lo ricorda. Questo non vuol dire che vabbè, allora devo mangiare tanto perché altrimenti non riuscirò mai a perdere peso. Significa che ovviamente io dovrò scendere rispetto a quello che mangio, soprattutto facendo attenzione alla qualità di quello che mangio, ma non devo far troppo o soprattutto non devo lasciare il mio metabolismo per dei periodi molto lunghi, sì, in carenza di. Quindi se io, come dicevo, con le mani prima, in mano, insomma, esatto, dobbiamo farlo sempre lavorare. Dobbiamo sempre farlo lavorare nella maniera giusta, altrimenti lui si, come dire, adatta a questo tipo di cosa. C'è da dire, sì, che se anche faccio le cose fatte bene, il mio metabolismo un pochettino si adatta. Come dire, tutti hanno provato a fare una dieta anche giusta, rendersi conto che perdono peso all'inizio e poi smettono a perdere peso. Sì. Ecco, questo. E infatti molti a quel punto lì smettono perché dicono, ma vai un po' a quel paese. No, esattamente. Invece no, perché basterebbe dare al nostro metabolismo una ragione per non adattarsi. Ad esempio fare movimento, fare attività fisica è esattamente, diciamo così, ciò che può far cambiare completamente il nostro metabolismo, far sì che continui a rimanere un pochettino cicala, perché avrebbe una ragione per divertirsi. Professoressa Lucini, ma è vero che il metabolismo ogni tanto ha bisogno di qualche strattone, una sorta di shock, una terapia d'urto? Faccio riferimento ad una serie di diete che propongono, ad esempio, di alternare giorni in cui si mangiano solo proteine, rigorosamente proteine, ad altri giorni in cui vengono invece consigliati solamente la frutta e la verdura, insomma quasi a sollecitare il nostro metabolismo ad essere pronto a trasformare da ricavare da cibi diversi l'energia. Ha un fondamento? Ma guardi, di dati scientifici importanti e seri a questo riguardo non ne abbiamo. Ci sono molte cose, come spesso succede nell'alimentazione, che vanno di moda oppure sono delle prove, vediamo cosa succede. Di sicuro possiamo dire che fare attenzione, anche una dieta di questo genere, se ci pensiamo bene, ci obbliga a stare attenti, sì, a cosa mangio, perché oggi faccio così, domani faccio cos'ha, eccetera. Quindi diciamo, il fare attenzione è una cosa che aiuta, perché una persona sta attenta a quello che introduce, cerca di avere una regola, ed è questo, è una delle basi che ci possono aiutare per perdere peso. Quindi io starei un pochettino attenta a diete vendute un po' come miracolose, che fanno cose di un tipo piuttosto che di un altro, anche perché la cosa più importante per aiutare il nostro metabolismo è proprio quello di far diventare la nostra modo di mangiare una abitudine. Fare una roba stranissima, super particolare per un tot di tempo e dopo smettere non porta mai a un risultato duraturo, perché non dimentichiamoci che perdere peso, piuttosto che paradossalmente anche aumentarlo, perché sono poche, ma ci sono anche le persone che hanno bisogno di aumentare di peso, richiede una costanza, deve diventare un'abitudine, perché altrimenti poi il nostro organismo, che è sempre un pochettino lazzarone, torna indietro. E quindi il risultato svanisce. 800 24 00 24. Adesso che abbiamo un po' capito gli errori da fare, da non fare, vediamo un po' cosa aiuta il nostro metabolismo a darsi una mossa. In linea con noi è tornato a trovarci il nostro dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto subito, Mary, forse sapeva che sarebbe passato di qui, da Cuore Denari, ci ha mandato subito un sms. Cosa ne pensate dell'aceto di mele prima dei pasti? Io sto provando, l'ho associato a sport, come corre, e alla dieta, e sembra che funzioni, aggiungo io. Dottora Voledo. Sembra, nel senso che sentivo, stavate proprio adesso appena mi sono collegato parlando di evidenze scientifiche, adesso ci sono molti cibi che vanno di moda, uno di questi è l'aceto di mele e viene molto utilizzato e spacciato come alimento miracoloso. Anch'io, come la dottoressa Lucini, non credo che esistano alimenti miracolosi. L'aceto di mele sembra aiutare, ma è più, come dire, l'entusiasmo dei consumatori a sostenerne l'utilizzo, perché le evidenze scientifiche in merito, a dire il vero, ancora mancano. Però al mattino, appena svegli, è suggerita la sua azione un po', no? Di detox. L'aceto di mele? Sì. Ah, non da me. Però va bene. Allora, l'aceto di mele me l'avete un po' distrutto, ma a me piace molto, io lo uso al però mattino. Però Nicoletta, posso aggiungere una cosa? L'aceto di mele ha un vantaggio, sono anch'io d'accordo con quello che diceva la dottora Voledo, che non abbiamo ricerche scientifiche in merito, però se ci pensiamo, se l'aceto di mele è un condimento che può sicuramente andare bene perché dà sapore, ma non è così forte come l'aceto normale. Sì. Se io uso l'aceto di mele, ad esempio su un'insalata, e non uso o uso meno olio, ecco che allora funziona, ma perché uso meno olio. Ho capito. E c'è una cosa che mi dà un buon sapore senza essere troppo forte. Quindi questo senso... In questo senso ho promosso l'aceto di mele, che però io vi devo dire che lo bevo al mattino in un bicchiere, metto un cucchiaino, due di aceto di mele, a me sembra che mi faccia bene, io continuo a prenderlo. Ma male non fa, Però... Allora continui, squadra che vince non si cambia. Dai, dottora Voledo, provi anche lei, poi mi racconta. Invece, mi racconta un po' come dare un po' la mossa al nostro metabolismo. Sicuramente bisogna iniziare con il piede giusto e quindi la colazione. Anche qui però, come anticipava la professoressa Lucini, bisogna capire cosa mangiamo, quanto mangiamo e anche quando. È vero che c'è un tempo in cui è suggerito e consigliato consumare la prima colazione dopo il risveglio? Sì, la dottoressa Lucini giustamente diceva di non stare troppo tempo senza mangiare, che questo ha delle ricadute negative sul metabolismo. E se ci pensiamo bene, il momento più lungo in cui stiamo per tutta la giornata senza introdurre cibo è la notte, quindi la colazione è un momento fondamentale perché usciamo da un digiuno prolungato. Le persone che saltano la colazione hanno grandi possibilità di ingrassare più degli altri, e fare colazione aiuta a dimagrire entro una durata che è stata ben definita, di mezz'ora, un'ora al massimo. Ecco. Questo aiuta a dare il via al processo metabolico dell'organismo. Quindi segnatevi, entro mezz'ora, un'ora da quando aprite gli occhioni, bisogna sedersi a tavola e fare una buona colazione. Questi altri consigli subito dopo i mercati. Andiamo, restano con noi la professoressa Lucini e il dottor Luca Voledo. Il nostro numero verde, come i messaggi Facebook e Twitter, sono come sempre a vostra disposizione. Cuore e denari. Io stavo cercando te, tu sei il contabile! Sì, gliel'ho appena detto, sì. Tu te ne intendi di conti? Di bilanci, sì? Eh beh, certo, è il mio mestiere e non per dire sono anche parecchio bravo, sì. Perfetto! Io arrivo alla fine del mese e ho speso più di quello che ha guadagnato. Oggi è la giornata mondiale del risparmio, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione insieme a Marco Loconte, con lui parleremo di come è cambiato il risparmio degli italiani negli ultimi anni, ma soprattutto chiederemo a voi che tipi di risparmiatori siete. 800 24 00 24, vi vogliamo anche fare una domanda: come reagireste scoprendo oggi di dover sostenere una spesa imprevista di 1.000 euro? Voi riuscireste a sostenerla senza problemi oppure dovreste chiedere aiuto? E se la spesa fosse ancora più sostanziosa, 5.000 euro, vi è capitato negli ultimi anni di dover sostenere delle spese impreviste? E com'è andata? 800 24 00 24. Aggiungetevi anche voi, siamo a tavola praticamente con la professoressa Lucini e il dottor Avoledo, non stiamo mangiando ancora nulla ma stiamo cercando di capire cosa mettere nel piatto e che cosa fare anche nel corso della giornata per dare una mossa al nostro metabolismo. Dottor Avoledo, siamo arrivati alla colazione che deve essere consumata entro tra la mezz'ora e l'ora dal risveglio dopo il digiuno notturno, ma una colazione che deve avere alcune caratteristiche per dare al nostro metabolismo un segnale forte e chiaro, e cioè lavora. Sì, ne direi due: abbondante e con una quantità di proteine sufficiente, nel senso che prima si parlava di cibi dalle proprietà dimagranti, in qualche modo, che possono aumentare il metabolismo. Le proteine, al di là delle diete iperproteiche che non ci piacciono, ma le proteine comunque hanno un effetto che si dice termogenico, cioè sono sostanze che fanno sì che l'organismo aumenti la produzione di calore a scapito del tessuto adiposo. Quindi una quota di proteine anche a colazione, cosa che gli italiani di rado fanno, più l'alimentazione anglosassone, statunitense, che utilizzano le fonti proteiche a colazione, invece è una buona abitudine da introdurre. E una fonte proteica perfetta per la colazione, spesso ne parliamo anche a Coordinari, sono le uova. Sì. Però dottor Avoledo, un uovo oggi, un uovo domani, non rischiamo di mangiare troppe uova? Meno di quel che si creda, a parte che un uovo oggi, un uovo tutti i giorni sicuramente non ci piace, anche perché la monotonia non ci piace, la varietà è il nostro mantra. È comunque vero che sulle uova ancora veicolano notizie, false tendenziose, dai, diciamo così. Vecchie di 40 anni, le uova non aumentano il colesterolo, non c'è nessun aumento del rischio cardiovascolare in chi mangia 8 uova alla settimana rispetto a chi ne mangia uno. Professoressa Lucini, uova promosse? Fino a un certo punto, diciamo che l'uovo non è tutto uguale, sicuramente l'albume è ben promosso, che è quello che ci dà la fonte proteica vera e propria. L'albume, il tuorlo, cioè la parte gialla, contiene un pochettino più di grassi e più di colesterolo, per cui persone che hanno problematiche di sovrappeso, in generale di dislipidemia, se non ne abusano sicuramente meglio. Andiamo a Verona c'è Celeste e poi subito dopo facciamo un saltino a Brescia per sentire cosa vuole raccontarci Fabio. Celeste, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuta. Ti volevo dire che io sono ho sempre una stanchezza cronica. Mi sento proprio sempre stanca, cerco di andare in palestra. Sì, però niente. Ho un problema alla tiroide, prendo l'Eutirox e poi cerco di stare molto attenta nel mangiare, faccio una buona colazione, però poi non calo, non dimagrisco. Allora, chiediamo, no, ma ha fatto bene Celeste a chiamarci, perché sono in tante le persone che si riconoscono nel profilo tratteggiato da Celeste. Chiedo naturalmente aiuto ai nostri esperti. Faccio tanto, vedo poco, perché Celeste fa attività fisica, mangia bene, sta attenta, ha questo problema della tiroide, professoressa Lucini. Sicuramente. Ecco, infatti quando noi non dimagriamo, diciamo, è colpa della tiroide che quando mi blocca. Quando noi non dimagriamo, una delle cose che bisogna fare sarebbe quella di andare a fare tutta una serie anche di controlli clinici per vedere se ad esempio la tiroide funziona bene o no, perché le tiroidi che funzionano un pochettino di meno, sì, che sono in ipotiroidismo, hanno un po' meno questo ormone tiroideo che ha una sua azione anche, diciamo così, in maniera molto semplice nell'aiutare il nostro metabolismo. Quindi è vero che le persone ipotiroidee fanno più fatica a dimagrire e sono stanche, ciò non toglie che è possibile fare delle attenzioni che ci portano ad un risultato tipico, ad esempio come quello della nostra Celeste, signora, della nostra Celeste, che dice: sono stanca, voglio fare attività, vado in palestra, però magari faccio più fatica e poi non dimagrisco. Due cose importanti: anche se faccio fatica a fare attività fisica, magari ci vuole un'attività fisica particolare, ma questa ci deve essere, perché come dicevo è quella che va a svegliare il nostro metabolismo. E l'altra cosa sulla alimentazione: non solo conta il che cosa mangio, ma come dicevamo prima, anche avere una giusta, non dico elevata, ma giusta quantità di proteine. Molto spesso capita che facendo le diete si tolgono quegli alimenti, vedi, proteine, che invece andrebbero a creare i nostri muscoli, che sono la parte nobile, quella che tra l'altro consuma. E certo, perché la massa magra è quella che consuma. È quella che consuma, è quella che ci serve. Alcune diete sbagliate vanno invece a togliere questa massa magra e quindi ci rendono molto, rallentano il nostro metabolismo, e poi rallentano in fondo ulteriormente il metabolismo. Per quanto riguarda l'attività fisica, avevamo puntualizzato che anche l'orario fa la differenza, l'orario dei nostri pasti, ma anche l'orario in cui facciamo attività fisica. Meglio al mattino a digiuno per bruciare di più, professore Salucini, poi passiamo ai consigli del dottor Avoledo. Di sicuro meglio al mattino, per il bruciare di più, alcuni studi dicono così, altri ne dicono di meno. Diciamo che indubbiamente l'attività fisica non va mai fatta completamente a digiuno, specie in persone magari diabetiche, in persone che hanno qualche problema di tipo metabolico, ma nemmeno va fatta dopo aver mangiato, certo, tanto, ok? Ecco, quello. Quindi, ad esempio, al mattino io mi prendo un pezzettino di frutta, mi prendo un pochettino di latte, mi prendo un pezzettino di pane integrale piccolo, faccio la mia attività fisica e dopo mi faccio la mia bella colazione. Su questo non abbiamo dubbi. L'attività fisica fatta alla sera, se proprio è l'unico momento, va bene, però ecco, non è proprio l'ideale. È difficile addormentarsi, si è più stanchi, si rende di meno, quindi non è il momento migliore. Allora, io posso, devo dirlo, per qua in studio è arrivato Marco Lo Conte, che oltre a sapere di risparmio ne sa anche di attività fisica. Marco, tu, buongiorno, sei benvenuto. Grazie. E quindi puoi dire anche tu la tua sull'attività fisica, dipende, dicevi, dal tipo di attività fisica. Sì, sicuramente è utile fare stretching, fare forme di allungamento della muscolatura, Pilates, che ora va molto in moda, alcune di queste discipline che servono al benessere più che alla forza e alla massa muscolare, è sconsigliato, poi ognuno è fatto a modo suo. No, ma certo, ma tu sei un runner, ti abbiamo sempre presentato come un grande sportivo. Io correre la sera non ce la neanche la mattina presto. Allora, la mattina presto corri, mi Marco, dovete mattino no, per sera no, quando corri? O all'ora di pranzo o nel tardo pomeriggio. E il tuo metabolismo è cicala o formica? In che senso? Nel senso che lavora bene oppure è un po' addormentato? Sta ancora dormendo, lo risveglia il dottor Avoledo. Dottor Avoledo, sempre partendo dallo spunto che ci ha dato Celeste, quindi una dieta che sembra equilibrata, un'attività fisica che è presente, ma questa stanchezza, questa fatica che avvertiamo, diamo, no, la colpa a tante cose, allo stress, al fatto che dormiamo magari non tanto bene, alle preoccupazioni, agli anni, come facciamo? Bisognerebbe inquadrare veramente la persona nell'ambito della sua storia. Le cose che diceva la dottoressa Lucini sono del tutto condivisibile. Bisogna anche ricordare che oltre alla tiroide, man mano che passano gli anni, c'è una perdita di tessuto muscolare, che è quello che mantiene alto il metabolismo, una perdita di quasi lo 0,5% del metabolismo basale ogni anno. Quindi è vero che si possono fare alcune cose che vanno inquadrate nell'ambito della storia della persona e soprattutto di come mangia. In particolare, quando parlava di buona alimentazione, sono sicuro che farà tante cose buone nella nostra nostra crostatrice, ma per esempio oltre a mangiare la giusta quantità di proteine non bisogna nemmeno per esempio eccedere con i carboidrati, e una cosa che potrebbe fare la nostra ascoltatrice è evitare per esempio di mangiare carboidrati di sera. Questa è una cosa importante dal punto di vista metabolico, sia per quello che riguarda il peso sia per quello che riguarda anche la stanchezza. 800 24 00 24, prima di capire se siamo delle formiche o delle cicale riguardo ai nostri risparmi, Marco Loconte è già qua e quindi potete già prenotare i vostri interventi per parlare e confrontarvi con lui. Voglio dare la parola a Fabio da Brescia, sentiamo la domanda e poi andiamo subito a sentire che cosa succede sulle strade. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Volevo salutare anche la dottoressa Lucini e il signor Avolelo. Grazie, è stato molto. Anche io... Marco, saluti anche Marco Loconte, se no sa che perché Marco è sensibile. Buongiorno. Sì, sì. Buongiorno, che tra l'altro è uno che corre come me. Ecco. Allora, io tra le altre cose faccio pure maratone di montagna, quindi penso che di movimento ne faccio parecchio. Io la domenica corro fino a 5 ore in salita. Quindi su quel punto di vista lì dovrei essere a posto. Il mio problema è che io non mangio, non mi piace nulla. Io vivo a formaggi, faccio una buona colazione dolce, ma poi durante il giorno io non bevo e il poco che mangio è sempre quello. A me solo piace il formaggio. Solo quattro cose e mi piace solo da quello. Da quando era bambino? Praticamente sì, da quando sono uscito dal collegio alle medie, che lì mi davano un po' di tutto, da lì poi ho fatto selezione. Sono un topo formaggino. Cuore e denari. Siamo qui allora, Fabio, professoressa Lucini, dottora Voledo. Allora, Fabio fa di sport, ne fa tanto, fa le maratone tutte in montagna, però non ha appetito, mangia una dieta, come dire, altro che varia, super monotona, mangia sempre le stesse cose e ci ha detto che mangia sempre solo formaggi, eppure ha la forza per correre, muoversi, ne fa di ogni. Professoressa Lucini. Ma sicuramente per l'attività fisica che fa, fantastico, indubbiamente l'alimentazione non è l'ideale, indubbiamente c'è un apporto calorico magari anche sufficiente per produrre energia, però non sappiamo bene com'è l'effetto reale sull'organismo. Dovremmo, magari Fabio l'ha già fatto, andare a vedere un po' di esami del sangue per capire com'è il suo profilo lipidico. Da quanto ho detto che al mattino lui mangia dei dolci, per cui un pochettino di carboidrati li assume. Sicuramente variare un po' di più, magari cercare di aggiungere anche un po' di verdura, un po' di frutta potrebbe male essere non farebbe. Buona, Lui ha detto che magari era un po' obbligati in collegio a mangiare sempre cose perché magari non erano buonissime. Si può fare esperienza di cose varie anche molto buone, bisogna solo provarci. Beh, ecco, questa è una buona idea. Dottora Voledo, prima di salutarci, un consiglio alla Voledo, come diciamo noi in redazione? Un consiglio al nostro ascoltatore? In generale, per risvegliare il metabolismo di tutti gli ascoltatori di Cuore Denari che sentono che il metabolismo è un po' fermo, che fa un po' la formica, insomma. Che mette tanto a colazione, medio a pranzo e poco a cena. E come distribuzione? Questa è la distribuzione, appunto, la maggior parte delle calorie nella prima parte della giornata, a metà pranzo un pranzo normale e a cena una cena da monaco, come si suol dire, e magari rinunciando a cena ai carboidrati, quindi mangiando solo le proteine e la verdura, in particolare il nostro ascoltatore che vive di formaggi, verdura e frutta, anche per la loro capacità di prevenzione di tumori e prevenzione cardiovascolare, vanno introdotte. Grazie alla professoressa Lucini e al dottor Avoledo per essere stati con noi, buona giornata. Buona giornata, grazie. Buona giornata, presto. Non abbiamo chiesto se erano cicale o formica, ma di cicale e di formiche parliamo e commentiamo gli sms che sono arrivati, anche le mail, insieme al dottor Aquilar che è tornato a trovarci. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno di nuovo, eccomi pronto. Ecco qua, intanto abbiamo già Marco Loconte. Marco, tu sei cicale o formica? Come risparmiatore? Sì. Sono formica. Tu sei formica. Assolutamente formica da lunga tradizione, forse è una cosa proprio italiana, siamo legati al nostro passato, alla nostra tradizione e quando cerchiamo di fare un passo più lungo siamo portati a misurarlo. Ed è bene che sia così, il che non significa non consumare, non significa non godersi le cose, non significa non progettare. La cosa importante è fare in modo che il risparmio sia funzionale anche, per esempio, alla progettualità. Io tra 10 anni voglio fare una cosa e inizio a mettere da parte i soldi, magari per quindi i miei legarlo figli, a dei progetti. Assolutamente. E a proposito, che così commentiamo con il dottor Aquila, ci scrive un'ascoltatrice: sono sempre stata una formica per educazione familiare, ma non tirchia. Ora lo sono perché sono preoccupata e penso di dover aiutare i miei figli, essendo i giovani di oggi meno fortunati di noi sessantenni di oggi. Dottor Aquila, c'è questa preoccupazione anche, si diventa formiche anche per le persone, no? Per aiutare le persone che ci sono più vicine al cuore. Assolutamente sì, anche se nel caso della nostra ascoltatrice si riconferma l'essere formica, soltanto che cambia la motivazione. E quello che dicevamo in inizio di trasmissione, cioè che alcuni fattori tipo la crisi economica modificano i comportamenti, e forse la signora avrebbe voluto a 60 anni cominciare ad essere un po' cicala, ma non può esserlo perché c'è un'altra esigenza che è comparsa. Ci scrive Maria Simona: sono una cicala, ovvero una povera, tra virgolette, che vive da ricca, mi va bene così, conosco ricchi che vivono da poveri, non li invidio per niente. Beh, certo, gli eccessi non sono mai, come dire, commendevoli. È vero che l'importante è non trovarsi in difficoltà. Vivere di ristrettezza in un palazzo lussuoso non è divertente, sicuramente. Per questo io dicevo, sottolineavo il concetto della progettualità. Io risparmio per qualcosa. Risparmiare per risparmiare non serve a un granché. Serve se c'è un progetto di vita mia, dei miei cari o di persone che possono essere coinvolte dal mio intervento, e questo è ciò che dà veramente soddisfazione, perché è senso al risparmio. Risparmiare per è tirchiaggine, forse tirchiaggine, professor, no. Dottor Aquila, vogliamo una sua lettura psico? E come no, c'è la possibilità di avere una variabile psicologica nell'accumulo, e che quindi non diventa più funzionale ad un progetto, come diceva l'altro ospite, o con un qualche obiettivo. È per questo che dicevo inizialmente che la vera formica è convinta di essere una cicala, perché qualsiasi spesa faccia è convinta che non avrebbe dovuto farla. E in più volevo dire una cosa a proposito di Fabio, l'ascoltatore di prima, sì, che mangia solo 4 cose, che forse potrebbe farsi una chiacchierata con uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale, perché là deve essere un motivo psicologico, certo. E se lo sblocchiamo forse diventa anche più variata e più facilmente la sua dieta. Allora, ho un ragazzo giovane 26enne che ci ha scritto, ci scrive: purtroppo negli ultimi anni sono diventato cicala. Prima ero una formica, lavoravo tutti i giorni, avevo tante energie, mi piaceva lavorare, ma qualche anno fa qualcosa è successo dentro di me e non riesco più a lavorare tanto, ad accumulare i soldi. Lavoro giusto per campare. Ho perso i miei interessi, cioè sto vivendo così. Per oggi mi bastano i soldi e basta così. Non riesco proprio a svegliarmi. Diciamo che ho perso quel fuoco che avevo dentro di me. Come posso svegliarmi e ritornare ad essere formica? Io ringrazio il nostro amico che ci ha mandato una mail, un sms, scusate, e che ha preso spunto da questo gioco, sempre un gioco, no? Cicala e formica, e tante volte dietro a questi giochi arrivano delle attivazioni che ci permettono un attimo di riflettere, fare un po' il punto della nostra situazione. Dottor Aquilar, il nostro amico 26enne richiede naturalmente una risposta più articolata, e sono certa che lei magari sarà in grado di dargliela via mail, toccando, no, alcune corde, alcuni aspetti. Ma prima di lasciarci, quali sono i messaggi che interessanti che vengono da questa mail, che secondo me e di molti, racconta una situazione abbastanza diffusa. È molto bella questa email. Quello che possiamo dirgli è di non avvilirsi troppo, perché probabilmente è successo qualcosa nella sua vita che ha cambiato la gerarchia dei valori sui quali lui si muove, e l'obiettivo non dovrebbe essere di ritrovare il vecchio fuoco, ma di contemperare la parte precedente di formica con quella attuale di cicala, perché probabilmente dobbiamo fare qualcosa che ci consenta anche di avere emozioni positive. Lavorando solo per il futuro possiamo distruggere il presente, e non sappiamo quanto sarà lungo il nostro futuro. Quindi io direi a questo ragazzo di fondere le due parti, questo è molto più facile che ritornare alla vecchia struttura. Cuore e denari. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Una crisi che ci sta mettendo tanto a passare, non possiamo ignorarlo, in questa 90esima giornata mondiale del risparmio. Qui in studio abbiamo il piacere di avere Marco Lo Conte del Sole 24 Ore. Marco, abbiamo già accennato un po' al tema, al risparmio, come siamo cambiati, e questo è un po' quello di cui vorremmo parlare anche con i nostri ascoltatori, che cosa si sta muovendo, e vorremmo soprattutto commentare con te i dati che arrivano come ogni anno dall'indagine Ipsos Acri, che viene presentata come ogni anno alla vigilia della giornata mondiale del risparmio. Siamo più ottimisti, vediamo finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Che cosa è cambiato? Che cosa sta cambiando? Ma poi ci dai anche dei consigli, eh? Sì, beh, allora intanto questi dati registrano un tendenziale miglioramento del clima, ma sono dati che apparentemente dicono tutti questa cosa, insomma, che le cose stanno migliorando. In realtà sono da leggere, da analizzare con attenzione. Per esempio, si dice che la gente risparmia di più e quindi aumenta quantomeno la quota di italiani, sono circa un terzo, che riescono a mettere da parte qualcosa ogni anno. In realtà questo non è un dato, come dire, positivo, è un dato che registra la tendenza degli italiani a mettere da parte qualcosa per far fronte a criticità future. È un dato in realtà che testimonia come la crisi non sia per niente, certo, finita. Anzi, è un po' come quando andiamo dal medico e trova che abbiamo la pressione alta, il colesterolo alto, allora ci mettiamo a dieta. Sì. Ma questo, esatto, non vuol dire che gli italiani si mettono a dieta volentieri. A volte c'è un fatto esterno, esatto, che in questo caso la crisi, che gli fa cambiare un po' idee sulla questione del loro risparmio. È la crisi, ma dentro la crisi c'è l'incertezza. Certo. Cioè, mentre altri paesi, altri contesti economici, per esempio il Giappone ha messo in campo l'Abenomics del premier Abe, che è un piano che punta a uscire dalla crisi in qualche modo, funziona o non funziona, sì, è tutto da capire. Gli Stati Uniti hanno adottato un piano di pioggia di liquidità che ora va a chiudersi e che ha riportato l'economia, come scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, a correre in qualche modo, insomma a riprendersi. In Europa e in Italia in particolare la situazione è stagnante, in Italia ancora di più. Questa crisi è in realtà qualcosa che fa male, che picchia, che morde le caviglie, ma che soprattutto produce incertezza. Nell'incertezza la gente risparmia, e questo riguarda la stragrande maggioranza, cioè una grande porzione di italiani. Un dato molto preoccupante, secondo me, è il fatto che se pochi anni fa, nel 2010, il 18% degli italiani sosteneva che era opportuno non investire niente e quindi aveva un atteggiamento di repulsione per tutto ciò che è gestione del denaro, finanza, risparmio, eccetera, ora questa quota è salita al 32%. Dal 18 al 32, un bel salto. Questo è preoccupante perché, come diciamo spesso, l'economia, la finanza, se tu non te ne occupi, è lei che si occupa di te. Se non tieni alta la guardia, se non ti informi, se non coltivi la tua capacità di gestire le cose, il risparmio, la consapevolezza, l'informazione, rischi di ritrovarti sguarnito, disarmato e vulnerabile. Quindi è importante informarsi e vabbè. Quindi, insomma, Sole 24 Ore ogni giorno sotto il braccio, insomma, ma anche apritelo esatto, e leggete. Perché il risparmio è, ed è questo il giorno, oggi è la 90esima giornata mondiale del risparmio, è un giorno in cui si celebra la virtù e l'arte del risparmio, cioè mettere da parte qualcosa, come si accennava poco fa, non per il piacere di accumulare denaro come zio Paperone, ma per costruire dei piccoli progetti di vita nostri o collettivi, per dare un senso alla progettualità del futuro. È difficile, non è semplice, però ci sono per esempio delle leve. Dicevamo, i dati sono contraddittori, da una parte voglia di protezione, la gente dice la liquidità, strumenti a basso rischio, però c'è una porzione importante di italiani anni, che invece vede, vuole investire con un rischio maggiore. Questo perché? Perché le borse negli ultimi tempi sono andate discretamente bene, forse i nostri ascoltatori non se ne sono accorti, perché le borse magari crescono 0,2-0,3% ogni giorno e ci si fa caso quando la borsa perde il 4%. Invece è importante vedere il numero generale. Le borse ora stanno un po' rallentato, ma dal 2009, da marzo 2009 fino ad oggi c'è stato per l'indice di Piazza Affari, per gli indici statunitensi, un raddoppio, una moltiplicazione per 3 del valore delle azioni, e questo è un dato che è reale, concreto, numerico, cioè non è una chimera, e questo sta spingendo una quota di risparmiatori attenti, sì, ad aumentare il livello di propensione al rischio, ed è un dato che riguarda una quota non indifferente, diciamo circa il 10% degli italiani, che non sono pochi, insomma, ecco. Siete in questo 10%, 800 24 00 24, avete tenuto, controllate tutti i movimenti della borsa, scriveteci e chiamateci. Giovanni ci chiama da Varese, poi subito dopo Sergio dalla provincia di Torino. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Festeggia con noi la giornata del risparmio. Sì, volevo solo raccontare un po' molto velocemente la mia piccola esperienza. Sì. Nei miei cambi di lavoro che ho fatto frequentemente da una quindicina d'anni a questa parte, e ho avuto varie vicissitudini fino a trovarmi quasi in braghe di tela all'inizio del secolo, nel 2000 così, ma tentando sempre di restare a galla e avendo la fortuna di mia moglie che lavorava in un posto, diciamo, a reddito fisso, sì, ce l'abbiamo fatta. Ma 15 anni fa, come stavo dicendo, non riuscivamo a metter via il becco di una lira, e c'erano ancora le lire, e una spesa imprevista di 50 euro sarebbero stati proprio problemi enormi da superare. Invece oggi mi sembra che il tono della sua telefonata mi faccia sperare che oggi... Infatti, tutti in crisi così, io riesco ad andare al ristorante 2-3 volte a settimana e non me ne vergogno per niente, se ho una spesa imprevista di 10.000 euro l'affronto senza problemi, non dico che butto via i soldi. Insomma, qualcosa nella famiglia di Giovanni è cambiato, eppure Giovanni ha avuto degli alti e bassi. Giovanni, sono contenta per lei. Marco, anche tu, immagino? Assolutamente, non c'è niente di male nell'andare al ristorante, nel spendere quello che si sa che si può spendere in maniera oculata, consumare, comprare, non è un problema, non è sbagliato contrapporre risparmi e consumi, questo è il punto. È opportuno invece consumare se si è risparmiato con oculatezza, risparmiare per degli obiettivi. Il tirchio è un'altra roba. Sì, ecco. Parlando dei tirchi. Così come delle cicale che puntano a campare 3 settimane su 4, e la quarta chi lo sa? No, non va bene, insomma. Allora, alla domanda abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quanto facevano fatica anche a risparmiare. Certo. Tantissimi messaggi: non si risparmia per le troppe tasse, per le vecchie e per le nuove. Questo è un SMS che ritorna, ce ne non li conto, ma sono tantissimi, al 349-238-6666. Marco, anche tu ti sarai sentito dire, no? I risparmi sono... Si risparmia per... Sì, allora, si sente dire, e me lo state scrivendo, certo, si vive per pagare le tasse, purtroppo si risparmia, sì, per pagare le tasse. Di qui... No, Marco, sei tu l'esperto. Ti leggo i messaggi. Dobbiamo registrare, insomma, qui stiamo cercando attraverso questi dati di dare un overview, cioè un panorama generale di quanto accade. Poi ognuno ha la sua storia. Certo. Il dato aggregato ci dice che sta aumentando, purtroppo, la quota degli italiani che... A differenza di quanto ci diceva il nostro amico poco fa per telefono, di fronte a una spesa imprevista, per esempio di 10.000 euro, si troverebbero in difficoltà, e circa il 37% delle famiglie italiane si troverebbero in difficoltà in questa situazione, e un anno fa erano il 31%, e quindi la crisi economica sta mordendo pesantemente, e quindi è qualcosa da considerare con molta attenzione. Proprio per questo, di fronte a queste esigenze, di queste situazioni, si rischia di perdere il lavoro, le entrate si riducono anche per chi ha il lavoro, contratti di solidarietà, cassa integrazione per esempio e quant'altro, è chiaro che altre entrate si riducono, quel poco che si riesce a non consumare è naturale metterlo da parte. Questa la relazione tra maggior risparmio e minori entrate. Poi c'è un'altra dinamica che riguarda le entrate, dicevamo, la differenza tra quello che gli inglesi chiamano income, cioè lo stipendio, le entrate, i salari, sì, e il patrimonio. Una volta avevamo patrimoni ridotti, non così alti, e redditi maggiori. Ora la situazione si è invertita sotto certi aspetti in linea tendenziale, ossia molte persone hanno patrimoni, le case lasciate dai genitori e quant'altro, sì, ma redditi bassi, e si trovano a dover mettere in vendita a volte anche gli immobili, mettere a frutto, valorizzare, e questa è una dinamica difficile perché gli italiani in passato hanno ecceduto in investimento immobiliare, sì, si sono legati mani e piedi, l'amore del mattone insomma li ha portati 10 anni fa, no neanche 10 anni fa, era il 2006, il 70% degli italiani riteneva il mattone l'investimento ideale, ora questa quota è scesa al 24%. I prezzi sono scesi, continuano a scendere, io vedo palazzi che continuano a costruire e non riescono a vendere gli appartamenti, mi dispiace. La Banca d'Italia in un'indagine ha registrato come ci siano 612.000 appartamenti vuoti in Italia, tra nuovi e vecchi. Quindi i risparmi sul mattone non si mettono più, quasi. Nuovi? No, no, il problema è vendere a dei prezzi adeguati, ma nuovi, l'idea che il mattone sia un investimento sicuro, scordiamocelo, lo scriviamo domani su Plus 24. Abbiamo un'anticipazione, esatto. Vedi che a sentire Cuore Denari si guadagna sempre. 800 24 00 24, abbiamo Sergio che ci aspettava da Torino, a cui si sono aggiunti Franco e Mauro. Sergio, buongiorno, benvenuto, buona giornata mondiale del risparmio anche a lei. Buongiorno a voi tutti. Ma io ho 55 anni, quindi posso dire a ragion veduta che ho fatto del risparmio la regola di vita, forse nel senso che sarà stato dovuto alla famiglia, che mi è stato praticamente inculcato, e di conseguenza posso dire che a 40 anni ero già sistemato. Beh, l'educazione conta molto. Guardi Sergio, Sergio, noi volevamo proprio insieme a Marco Loconto toccare l'aspetto dell'educazione, che ha un ruolo fondamentale. Se vuole completare, Sergio, passo poi la parola a Marco. Sì, volevo dire che invece oggi vedo magari ragazzi che riescono ad avere un posto di lavoro, magari con un ottimo stipendio, però non hanno proprio l'idea, come si dice, vero? L'idea, la mentalità, di iniziare a farsi una base. Io a 30 anni avevo già una base, ora adesso forse questa incertezza così diffusa disorienta i giovani, che dicono ma tanto non c'è il futuro, allora vivo la giornata. E questo non lo so. Va bene, secondo me si diventa adulti quando si risparmia veramente, cioè a 30 anni il nostro ascoltatore era un uomo che aveva già fatto delle scelte, aveva già impostato la sua vita, magari poi l'avrà cambiata, però insomma comunque aveva preso coscienza delle cose. Oggi nell'incertezza si rischia di sbandare, e questo è altrettanto negativo. Allora cosa fare? L'educazione in famiglia è importante, a scuola per carità ci vorrebbe più cultura, anche a scuola. E di ieri un appello degli insegnanti di diritto ed economia che vogliono reintrodurre questa materia importantissima nei licei italiani. Sono migliaia gli studenti che non studiano più questa materia, che è una materia del presente, è conoscere l'attualità, la realtà in cui viviamo. Ma non solo, per esempio gli adolescenti possono essere educati al risparmio grazie alla paghetta. Certo. Una paghetta con continuità, con costanza, aiuta a comprendere il valore dei soldi, fare un po' un bilancio tra le entrate e le uscite. Quando invece si viene assunti e quando si diventa grandi, si esce di casa o quantomeno si prova a diventare grandi, per esempio se uno, si diceva, i neoassunti, aderire ad uno strumento previdenziale, anche questo è estremamente educativo perché ci consente di accantonare qualcosa per il futuro lontano, quando smetteremo di andare in pensione. Non ci fa, è chiaro che è una cosa molto lontana, passeranno 40 anni, ma se io non inizio a strutturarlo, allora non lo vedrò. Invece è opportuno strutturarlo, risparmiare per la pensione, così la nostra pensione non sarà più un'alea, qualcosa di aleatorio, qualcosa di nebuloso, sarà qualcosa che io giorno per giorno costruisco, rendo concreto. Andiamo a Mauro dalla provincia di Firenze e poi a Franco da Brescia. Mauro, sei rapido, riusciamo anche a sentire Franco. Buongiorno. Sì, buongiorno. alla luce di tutto questo volevo chiedervi, io sono abbonato a un settimanale, ho ricevuto stamani proprio l'ultima, c'è scritto le mani sui nostri risparmi, per far quadrare i conti il governo aumenta le tasse su quel che resta del tesoretto accantonato dalle famiglie, dai depositi bancari ai fondi pensione, fino alle liquidazioni. Allora voglio dire io, ma uno cosa deve fare? Il mattone, giustamente come diceva il dottor Lo Conte, è stato sopravvalutato per anni, non è più quell'investimento sicuro come si poteva pensare una volta. Allora uno cosa deve fare? Grazie Mauro. Allora, è vero, le tasse sono aumentate sui fondi pensione, secondo me è anche un errore dal punto di vista strategico, però è un dato di fatto, ma precisazione, non sono aumentate. Nel disegno di legge stabilità è previsto un aumento della tassazione sui rendimenti annui, è qualcosa di preciso. Non è detto che passi, magari poi se lo rimangiano, per cui non si sa. Ci ripensano. Resta, secondo me, l'opinione che la previdenza complementare e i fondi pensione, che ne sono veicolo, siano uno strumento eccellente per risparmiare. Da vera formica. Da vera formica nel lungo termine. Questo è l'ultimo ritocco. Più di recente, insomma, qualche mese fa, l'aumento della tassazione per quanto riguarda i rendimenti prodotti per altri attivi. È vero, lo Stato ha bisogno di soldi perché in passato sono stati buttati via, ma buttati via in maniera indecorosa e invereconda, andando a costruire un debito pubblico che ora è costosissimo. Per questo lo Stato asciuga i soldi in tutti gli angolini. Resta comunque il fatto che il risparmio personale è una virtù da non trascurare mai per sé oltre che per lo Stato. Allora, abbiamo forse tempo. Franco, veloce, buongiorno, rapido. Buongiorno a tutti. No, volevo far anche notare come il mattone ci ha rovinato un po' tutti da quel punto di vista, nel senso che ci hanno messo un po' lo zampino anche le solite banche, nel senso che se oggi andavi una volta in banca e ti facevano scegliere un investimento, ti dicevano investi nel mattone. Ora se vai in banca e gli dici ti do garanzia un immobile che tu mi hai fatto e mi hai aiutato a comprare, ti dicono se lo tenga signor Franco il suo immobile. È vero. Allora grazie a Franco, e con Franco chiudiamo questa puntata di Cuore Denari dedicata al risparmio. Grazie a Marco Lo Conte. Grazie a voi. Noi torniamo lunedì, dico noi perché finalmente torna anche Deborah. Allora lunedì la nuova, di nuovo la coppia Cuore Denari per voi. Buona giornata.